Allora, sì, qualcuno che ascolta la sento detta, no? Attento Marino, no, Turanzino! Adesso mi c'è fermato. Ehi, Graziano! Grazie, tu sì! Marino! Il contadino chiama! Bobo! Mamma! Bobo! Ciao Mari! Che facendo? Scantando c'è Giomari! Come si fa che sei dormito ancora? No, c'è festa qua Giomari, pensate di tutti! Festa c'è! E che festa c'è? Che cosa? Quinta rassegna, quinta rassegna, sesta! Di Giovanni Giorgio, c'è musica sassarese. La quarta rassegna. No, cinque, quinta rassegna, Mari. Ah, ecco, di quella piazzetta, è così. Nella piazza nuova. Ah, ecco perché. E con tutto questo silenzio, questo tutti a passeggio solo, invece qualcuno vai a c'è. Comunque buonasera, ben sentito. Sì, a Giomari saluto anche a te. Non c'è lo chef, no? Lo chef non sei in tournée di Massicchia. Penso già un paio di giorni che non lo sento. Speriamo che ci senta bene. Sempre in da fare a due, isso. Graziano. Svegliati. Può darsi che sta guardando la festa dalla finestra, perché lui non ci scende, ma se la guarda dalla finestra, capito? Ho capito, scusa Giomari, stavo parlando con Marina, cosa ha detto? Ha detto lui non ci scende alla festa, se la guarda dalla finestra ce la guarda. Mi dicono viva la benissima a mangiare mandorle, capito? Semenze. Ah, così è. Ci avevo a fare allora. Beh, tu non ci vai alla festa allora? Prima ceno, vado dopo. Però ho notato che c'è anche freddo, lo sai, freschetto. Non sono uscito ancora, sono uscito stamattina, sono stasera, no. E non so se c'è freddo, se c'è caldo. E io già sono in caldo, meno male. Non mi dire che c'è la stufa accesa, no? No, è solo una settimana che non l'accendo. No, non ce n'è freddo, capito? Mi sembra che sia finita il tempo dell'accendere la stufa. Adesso aspira. Quando c'è il momento giusto si pulisce. Infatti. Tanto che non si accende più, bisogna ripulirla bene. Piano piano l'MM. Pronta per l'anno prossimo, capito? Si funziona bene. Tutti gli anni la pulisco io. La smonto pezzo per pezzo, senza toccare il circuito. Il resto la pulisco tutta completamente, tutta l'attrezzatura, dai. E anche noi abbiamo gli spazzoloni per pulire i tubi, aspirare il cenere, e poi c'è un bel problema. Nel caso che fa bisogno procuro anche la... che non c'è, come si dice? Se c'è bisogno del compressore. Io tubi ne ho poco, ne ho tre pezzi solo, capito? Io ne ho tre pezzi da un metro, capito? Per cui ne tolgo la T che c'è dentro la stufa e scendono tutti giù a dentro, capito? Piano piano uno a uno me la pulisco, capito? Tanto la spazzola io c'ho. Passo l'acciaio c'è, capito? E quelle tonde. C'è il filo dentro, me lo pulisco così, capito? E come quella che abbiamo comprato noi, da? Infatti, che c'ha su pochi tubi da pulire, capito? Per cui è anche facile, dai. Magari piano piano deve fare, senza fretta, piano piano la fai bene e sei tranquillo per l'anno prossimo. Vabbè, bisogna farlo Giomari comunque, perché così si è a posto per tutto l'anno, se no la si sporca poi si crea problema. La Marina gli dà come si chiama, un errore. Cosa ti esce? Non è un errore, è una scritta che esce perché ha raggiunto delle ore di accensione e quindi secondo le istruzioni, dopo che raggiunge quelle ore che esce con la scritta, bisogna chiamare un tecnico, punto. Non è un errore. Ma quello magari non è un errore, capito? No, comunque già segna tutto il display, capito? Basta controllare bene il manuale, per cui è facile individuare qual è. A me me la fa mia nuora per queste, la mobilizzazione del display, capito? Perché a me si mi è spenta, due volte si mi è spenta. E per cui io non riuscivo a capire perché ed era memorizzata male, capito? Allora me l'ha fatta con il computer, l'ha messa questo con il computer e mi ha detto, dice, come fare la prossima volta che si blocca? E si può anche spegnere quando manca la pellice. Allora, se manca la pellice accesa e manca la pellice, devi lasciare raffreddare tutto completo finché non si fermano le ventole. Dopo la puoi riaccendere lui. Esatto. Mancato il pellice, allora si spegne. E allora bisogna lasciare raffreddare bene, quando si ferma, allora la puoi riaccendere, perché sennò dopo ti dà sempre l'errore, capito? Quando si ferma. E infatti, quando non manca la pellice, me lo segna, capito? Me lo segno, ma io non ce le faccio mancare mai, Un paio di volte è successo, ma dopo non mi succede, non ci sono più, perché tiro sempre di più, capito? Sempre pieno. Io lo metto un secchio tutte le sere, e per cui sono tranquillo, capito? No, non deve mancare, ecco. Perché se manca è chiaro che ti segna, ti si spegne, capito? E io infatti una volta l'ho spenta e l'ho riaccesa quando la ventola era di nuovo ancora in movimento, capito? Invece bisogna lasciare che si fermi la ventola. Una volta che si ferma la ventola, allora la puoi riaccendere e l'accensione è regolare, capito? No, anch'io quando sono, cioè, come arrivare manca il pellet, e allora mi sono... Ma pure che arriva, cosa ne so, vado lo rimetto il pellet, così si più tranquillo, tanto verso le 9:30 si spegne sempre. Cosa ne so, magari verso le 6 faccio di nuovo il pieno, a voglia, poi quando si spegne già c'è ancora. Ehi, vai, se la conosco la mia, come può essere che voi conoscete la vostra, ormai so già... Cosa può? Ma è sempre funzionando bene adesso, e io ce l'ho già 6 o 7 anni, ma un paio di volte si mi aspetta e basta, boh. Il resto, però sempre mancanza di pellice, capito? Io non sapevo che quando mancava la pellice si spegneva, capito? Allora me l'hanno detto, ho letto bene le istruzioni e già è così. Non bisogna mancarne, l'appello deve mai mancare, perché una volta gira un pochettino a vuoto e si spegne, tutto lì. Ok? Niente, c'è Mario che manda un messaggio allo chef, vediamo se entra. Non ho capito, Lulu. Ho detto che mando un messaggio allo chef. Ahi, vedo un po', almeno sappiamo se si sente bene, dai. A mandare un messaggio, almeno sappiamo se si sente bene. Attenta, guffetta, ci sei? È da fare da vivere, ma sì, chissà cosa combinete. Cazzo. Non penso se è da fare facendo la cena, no? Ho ancora la vendribiati. Giovanni, perdonami, ma non ho capito cosa hai detto, che stavo parlando con Marina. Ho detto lo sarà ancora la lavandiri biati, no? Ah, io la più sicura, e poi ti ha mangiato un bel oggi. Sento, che con tutta la cosa che mangio, dove se la mette? paese diventa un buio e diventa di stato muro. Ma hai visto? Metto un teccio, un gatto, Tu lo ti dossi, anche come te. E di sono le fa tempo. Mi si può fare una federa grave, sta male, mi sa buttare le patte, dici, per carità, gatto. E vabbè. Sono giovani per cui hanno l'appetito, per cui lasciamoli mangiare. Da si calmano. Poi dice che è bello anche. Uffia, dai. Certo che... ieri la visita, oggi non l'ho sentito oggi, Anzi, dovevamo scendere in campagna, ma forse la settimana entrante. Capito. Allora devo andare a fare poco, una mezz'ora, poi devo lavorare la marina, la signora devo lavorare, gli si è rotta la perdita della vulnerabilità. Lui bisogna fare, ragazzi, tutto ci vuole abbastanza spesso, meglio un piccolità che a metà di Zaghino, capito? Ma io da giovane facevo la stessa cosa, quando riuscivo anche nei 10 minuti andavo a pulire il giardino, ma facevo tutto io. E tu, durante la settimana lavoravo, ma il sabato e la domenica che non lavoravo facevo questo lavoro in genere. Anche quello di cambiare il cinghio ho fatto, capito? E si può immaginare, vabbè. Bisogna... hai parlato là, se ne punire a parte di diminui, capito? Così che fai sempre lungo, quando c'è bisogna farlo. Tanto cosa fai in casa, rampato? Una nuia, io se me l'ho sentito bene sarei tornato ad andare a lavorare, ma è tutto a dolori. Tutto a dolori, cosa fa? Ma che campagna mia, posso fare più niente, puoi immaginare. Lo so, Gio Mari, l'età c'è, non sei più un ragazzino, Infatti anche quello mi trova a pesare gli anni, E 82 sono grandi, non sono pochi, per cui, anche io, mi ha rotto tutto quella caduta dell'albero, anni fa, capito, che ero tutto rotto. E adesso ne sono uscendo fuori tutte le malasorti, capito? Sì, no, grazie a Dio io non avevo niente, ero sempre stato come un pesce, però sai com'è, tra cui sei chissà, ma a una certa età è chiaro che ne escono tutti i malanni, per cui bisogna tirare avanti alla bella miglio, come dicono, bisogna lasciare andare finché la barca va quando manda, e cosa ci vuoi fare? Non sono più un ragazzino, per cui è così la vita. Gio Maria, magari anche la caduta, quello sì, ma anche il diabete ha fatto il suo, come si dice, suo dovere, ecco, chiamiamolo così. No, per la diabete io sono tranquillo, capito? No, da quelle cadute, non sto dicendo, ero 4 mesi, se più la posizione non mi potevo mettere, 4 mesi di lui. Ero tutto rotto, non mi potevo muovere nessuna parte, né girare un fianco né all'altra. Ti puoi immaginare, ero tutto rotto. Così che tutto da lì le stanno uscendo. Puoi immaginare. Per cui alla terza età escono fuori tutte, per cui da una cosa all'altra, magari fai una cura per una cosa e te le fa, ti guarisce ma te ne fa venire un'altra, capito? Anche queste ci sono, perché c'è l'età, capito? Non siamo più ragazzini, per cui mica ci sono ragazzi che stanno veramente male, grazie a Dio se non avrei avuto quella caduta io. Per la diabete sono tranquillo, capito, al 100%, ecco, tutto lì, perché mi controllo, ecco. Sì, ma infatti, meno male che ti controlli, c'è mamma che purtroppo ultimamente sta andando peggiorando, perché non fa quello che gli dicono, e a me mi si girano le scatole, per non dire altro, per non essere mai educato, perché uno fa alla fine un sacrificio per metterla in sesto, e poi... No, poi nega, quello che mi ha fatto io che nega, Dice, io non ho mangiato niente. Ma tu non puoi avere la glicemia a 280 quando mi dici che non hai mangiato niente. Non negare. Non ho mangiato niente. Ma sempre lui si disdieta. Quanti anni c'ha? Deve essere, non è tanto grande ancora. Ma 73. Non è così grande, comunque. La diabete, ma certe volte, magari chi lo c'è in mezzo non lo sa lui, guarda, chi c'è in mezzo non lo sa, io c'è pure certe volte esagero e mi piacciono le merendine, mi piacciono molto, con le ciliegie, capito? E compro apposta mille, tutte le sabato che vado a fare la spesa io devo prendere un pacco di quelle robe, quasi uno ogni sera me la devo mangiare, però se mangio quello non mangio altra cosa che può far più male, capito? E certo, se uno si controlla sarebbe l'ideale, però è come si fa, non è possibile. Secondo me non è possibile, perché me la cogo anch'io certe volte, la tentazione finché non riesci a mangiartelo, capito? Marì, se ce ne mangio ogni tanto va bene, ma che lei va a comprare dei dolci, dice che non sono per lei, per chi sono? Dice, per tuo fratello, ma non ci credo manco morto. Magari anche lì fa così, magari dice che non ha mangiato niente, dice qualche cosa, capito? Cosa ci vuoi fare? Ma a certa età non siamo tutti uguali, capito? C'è quella persona che riesce a tenersi, mentre invece c'è quella persona che non ce la fa a tenersi, capito? Allora ne abusa, ecco, com'è la situazione, anche quello capita. Ieri per dire, no, cosa ho mangiato ieri? Ah, ho mangiato due paste, mi ha portato mio figlio. Io raramente, però mangio quelle paste, come si chiama, rotoline, bocca, che c'è la marmellata in mezzo. Ho mangiato di quello, sai che mi è salita da 190, se puoi immaginare. Mi sono bevuto un litro e mezzo di acqua di quella smeraldina, dopo 2 ore mi l'ha misurato e ce l'avevo 143, ti puoi immaginare? Gio Maria, se te ne mangi una, cioè non è che, scusa, non muori, E tutto sta da controllo, è più facile, per la diabete se uno si controlla è tranquillo, però è un po' difficile, non sempre si riesce a controllare, ma bisogna avere pazienza anche con tua madre e lui, e purtroppo a una certa età una persona comincia anche, sai come sono. Se puoi mangiare un giovane, poi è una persona grande e peggio ancora. Gio Mario, io la pazienza l'ho avuta, va all'ospedale, poi presa in cura, fatta mangiare come Dio comanda, come hanno detto loro, tutto pesato. E poi il boom è iniziato, è una pasta oggi, però quando gli dico che la glicemia è alta, lei mi guarda e non dice niente, sai, è spaventata. Cosa fa? Io non posso fare niente, cosa faccio? Già che sono stato un anno a pressa lì, Gio Maria, io non potevo manco muovere se ti fidi. Devo stare attaccata al suo sedere per fargli il pranzo, per fargli l'insulina. Quando è molto alta, falli bere anche molta acqua, capito? Molto acqua, anche un litro e mezzo d'acqua. E dopo 2 ore gli abbassa. Molta acqua bisogna che bevo, capito? Io faccio così, quando ce l'ho alta, bevo molto acqua e per cui dopo 2 ore me la misuro e rimane più bassa, ecco. Così che molta acqua bisogna bere, perché l'acqua fa benissimo. No, ma già noto che l'acqua la bevo, ce l'ha sempre. Si prende quella mezzo litro, voglia. E poi siccome la bottiglia è troppo grande, quella grande non meglio quella piccolina, se la porta a letto. E ce l'ha sempre, portata di mano, la beve spesso. Però il discorso è anche il sale. Lei mangia come mangiava quando era sana. Giovanni, è inutile. È normale che poi il pancreas non produce insulina, lei è convinta che è la pastiglia o che magari gli fai quella dalla notte, anche se deve fare 2 unità in più. Lei è convinta che la glicemia si mette di nuovo a posto, ma non è così. Io l'ho tanto anche dalla macchinetta, che si fa? Si misura la glicemia alle 3 di notte, ma la cosa della misura fa? Per vedere se è alta e se puoi mangiare. Ma quando io ce l'ho alta, come certi fanno, aumentano la dose quando si fa l'insulina, invece no. Io faccio sempre la dose che mi ha ordinato, sempre a 22 le faccio io, sempre così. Però piglio anche la pastiglia la notte, io l'insulina la faccio solo la notte io, ripeto, solo la notte l'insulina, e ne faccio 22 cc. A mezzogiorno ho preso la pastiglia e la mattina lo stesso a colazione, un'altra pastiglia. Solo l'insulina solo la notte, però qua ripeto, quando ce l'ho molto alta non aumento l'insulina. E bevo molto acqua e si mi abbassa, capito? Si mi abbassa regolarmente, perlomeno a me mi fa quell'effetto e per cui sono tranquillo, ecco. Mario, mi sono passato un anno che sembravo in galera. Ma adesso magari poi le glicemie non sono tutte uguali, ognuno c'ha, ce ne sono tanti tipi, capito? La mia è ballerina, di quelle ballerine, per quelli vecchiaia, capito? Per cui un po' alta, un po' più bassa, capito? È sempre così, mai normale, ecco. O più bassa o più alta, sempre così. Però l'importanza è che non superi i 146, capito? Quando non supera 146 io sono tranquillo e pacifico. La mia è, io ripeto la mia, poi sua madre lo so che diabete c'ha, capito? Perché ce ne sono 3 o 4 tipi. Lo so Giovanni, ma allora ha iniziato con le 4 insuline. Poi con il tempo, con il mangiare sano, diciamo, chiamiamolo così, mangiare meno sale, invece di mangiarsi un bicchierotto di quei bicchierotti di latte pieno, se ne mangia pesato praticamente, metà. E poi lei ha sempre fame, cosa fa mamma? Fa colazione e poi lo trovi con la fetta biscottata in bocca sempre. E io la mattina a colazione faccio un bicchiere di quello di plastica, me lo scaldo e mi ci metto sempre una fetta biscottata integrale. Io tutta la mattina faccio quella colazione, boh. Dopo prendo la pastiglia fino alla 1 quando pranzo, capito? Prima del pranzo prendo la pastiglia, dopo mangio, capito? E così la notte. La notte prendo faccio l'insulina e più la pastiglia la notte, capito? Mentre la mattina e a pranzo è solo la pastiglia, capito? Ripeto, è quasi normale, capito? È quasi normale, ma non mi preoccupo per quello, capito? Perché sto a regolarmi, ecco. Adesso non lo so gli altri come fanno, boh. Sì, grazie, lo stesso c'è altro ultimamente, perché lì faceva cosa che prendeva? La cortisone, dice, te la fa salire un po'. Adesso io non vorrei che sia la pastiglia che gli hanno dato in più a mamma per la pressione, perché quella di mamma, la glicemia era perfetta, perché alla fine prende la pastiglia dalla mattina e poi la faceva solo un'insulina. Non lo so, o la pastiglia o sta mangiando più del dovuto. La pastiglia per la pressione l'ho presa anch'io, La pastiglia l'ho presa anch'io. Non influisce niente, capito? E io penso a tutto da mangiare, il tipo della diabete, capito? Perché ripeto, io ho sentito tanti, dice io ce l'ho così, quell'altro ce l'ho altra, ce l'ha diversa, un'altra ancora ce l'ha diversa ancora. E come si fa? Io ripeto, so che la mia Così, per cui mi ha detto fai così e sei tranquillo. L'abbiamo preso e ha detto così. Prendo questa pastiglia e viene prendo anche quella delle... allora dunque, cioè, prendo l'aspirina per la pressione e prendo quella della prostata e prendo quella del colesterolo e finisce così al giorno, si può immaginare lui. Però ripeto, sul mangiare quando mangio che esagero cose che non devo mangiare o che ne mangio tanta mi sale, quello è il punto, capito? Però se mi sale oggi non mi sale per una settimana perché mi controllo. Dimmi tu Giovanni, a chi che non piace mangiare, dimmi. A mangiare piace, ma ci sono i miei figli, no, fanno furia a mangiare, io certe volte non ci vado proprio per quello, perché mangio troppo quando esco fuori. E mangi questo, e mangi quest'altro, e quando sei in compagnia tu sai benissimo che si mangia anche di più, capito? E allora preferisco di non andarci e ci va, no, nemmeno ci vengo, andate voi, io non ci vado, perché sennò anche domani me ne invitate, non ci vado, perché so che quando vado mangio troppo e dopo lo so io, capito? Beh, certo. E vabbè, come hai detto tu poco fa, stai contraddicendo, hai detto poco fa bisogna darsi una regolata, anche tu fai darsi una regolata. Io adesso ce l'ho sempre regolato. Sì. E a te. Bisogna chiamare, stanno chiamandolo, dai. Mi ha approfittato, Graziano, l'ho entrato, per cui chiudo. Ci sentiamo domani eventualmente. Grazie, la chiacchierata, saluta Marina e a domani Lu. Buon proseguimento di serata, dai. Mi raccomando alla festa, e facci. Certo che ci va, ok. Maria contraccambia. Saluta anche la tua 50. Ci sentiamo domani, ciao Giovanni, buona cena. Ok, ciao Chino.